as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci qua di nuovo dal pane e le rose. Piccola pausa, non ci siamo sentiti martedì. Sono stato impegnato con queste votazioni. Non le parlerò in questa puntata assolutamente, non so nemmeno se le parlerò in futuro. Comunque, questa puntata la voglio riprendere una puntata che avevo fatto in passato, subito dopo lo sciopero organizzato dai sindacati nel gruppo Fiat del 18 d'ottobre. Avevo intervistato il delegato, nostro amico e compagno Giuseppe della Maserati, che abbiamo sentito spesso, intervistiamo spesso, il mio amico è il batterista della banda popolare dell'Emilia Rossa, delegato più votato della Maserati, Fiom. Insomma, con lui dopo il 18 ci eravamo sentiti, io non ero potuto andare alla manifestazione di Roma, manifestazione riuscita. Finalmente sono tornati a scioperare, non so da quanti anni, i film Fiomme Wilm di Stellantis, FCA, e avevo registrato questa intervista con lui, che però purtroppo, a causa di tutta una serie, chi segue il Pane Rose saprà che in questo periodo abbiamo avuto purtroppo delle puntate che sono state dedicate alla sicurezza sul lavoro, alla tragedia della Toyota e altre vertenze che sono arrivate, come quella della Berco, la manifestazione, insomma, e non sono riuscito a mandarla. Questo martedì volevo recuperarlo, anche perché c'è stato un contributo di Giuseppe, che la questione Stellantis è ritornata in questi giorni di nuovo a galla. C'è una crisi fortissima del settore auto che sta coinvolgendo non solo Stellantis, ma tante altre aziende del mondo dell'auto, tutto il mondo dell'automotive. Per questo io penso che sia corretto dare questa intervista. Ora, ieri è stata la giornata contro la violenza sulle donne, adesso metteremo un pezzo di Nina Simone, Ain't Gonna No, un pezzo bellissimo, ve lo vorrei recitare, perché questo testo semplice ma molto molto bello. Non c'è casa, non ci sono scarpe, non ci sono soldi, non c'è classe, non ci sono gonne, non ci sono maglioni, non c'è profumo, non c'è ribasso, non c'è mente, non c'è madre, non c'è cultura, non ci sono amici, non c'è scuola, non c'è amore, non c'è nome, non c'è un biglietto, non c'è gettone, non c'è Dio. E ciò che ho, perché sono viva comunque, sì, quello che ho, nessuno può portarlo via. Ho i miei capelli, ho la mia testa, ho il mio cervello, ho le mie orecchie, ho i miei occhi, ho il mio naso, ho la mia bocca, ho il mio sorriso, ho la mia lingua, ho il mio mento, ho il mio collo, ho il mio seno, ho il mio cuore, ho la mia anima, ho la mia schiena, ho il mio sesso, ho le mie braccia, ho le mie mani, ho le mie dita, ho le mie gambe, ho i miei piedi, ho le mie dita dei piedi, ho il mio fegato, ho il mio sangue, ho la vita, ho la mia libertà, ho vita e la terrò, ho vita e nessuno me la porterà via, ho vita. Ecco, adesso ascoltiamo questo bellissimo pezzo che ha fatto la storia della musica. Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith, ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. I ain't got no country, ain't got no schooling, ain't got no friends, Giuseppe. Allora, io non ero a Roma venerdì 18 ottobre, ricordo a tutti dello sciopero dell'automotive. Voi della Monaserati, ho visto che eravate lì chiaramente. Volevo che tu parlassi ai nostri ascoltatori le ragioni dello sciopero del 18, le motivazioni che hanno portato la FIOM a scendere in piazza e scioperare tutti i settori dell'automotive e anche la parte dell'indotto. Raccontaci un po' le vostre motivazioni e spiegaci, insomma, quello che vi ha portato a scioperare e scendere in piazza a livello nazionale in tutti i settori dell'automotive. Ciao a tutti. Beh, cosa dire, è stata una bella iniziativa, una bella mobilitazione che ha visto il coinvolgimento, la partecipazione di tanti lavoratori del settore automotive, non solo di Stellantis ma anche dell'indotto. È stato uno sciopero unitario indetto da FIM, FIOM e WIM che finalmente, dopo tanto tempo, dopo tanti anni, hanno deciso di scendere in campo, quindi di unire tutti i lavoratori per iniziare a dare delle risposte alla crisi industriale che il settore dell'auto in Italia sta attraversando, e non solo in Italia, come sappiamo, solo che in Italia forse abbiamo qualche problema in più perché la mancanza di investimenti perdura da molti anni, quindi già da che c'era Marchionne. Eravamo presenti anche noi come lavoratori Maserati, eravamo una delegazione di meno di 40-50 lavoratori ed eravamo in quella piazza per chiedere le stesse cose che chiedevano tutti gli altri lavoratori del gruppo, quindi prospettive industriali certe, continuità lavorativa e che i nostri salari non venissero più falcidiati, anche perché noi, come tutti gli altri lavoratori del gruppo, continuiamo a essere soggetti all'utilizzo massiccio degli ammortizzatori sociali, quindi ad avere una conseguente perdita salariale importante da meno 400-500 euro a mese, perché la media lavorativa in un mese sono a meno di 2-3 giorni. La domanda che ti facevo adesso era sul futuro dell'automotive in Italia. Quali sarebbero, secondo te, le cose da fare, cosa bisognerebbe fare in questo momento, quali sarebbero le soluzioni, come dovrebbe agire la FIOM, quello che dovrebbe fare il governo in questo caso e quello che dovremmo fare noi, quello che dovrebbe fare la politica, quello che dovremmo come dovremmo organizzarci noi lavoratori, se abbiamo bisogno di una sponda politica, se abbiamo bisogno di una lotta intensa, se abbiamo bisogno di una lotta dentro le fabbriche e fuori dalle fabbriche. Dacci tu la tua visione di tutto questo. Beh, questa è una domanda molto importante. Partiamo dal fatto che di fronte ci troviamo in una situazione molto difficile e complessa, la cui soluzione certamente non è facile da trovare, neanche immediata. Dall'altro lato io non vedo un percorso chiaro, con obiettivi chiari di lotta che possano contrastare efficacemente le politiche di Stellantis, né tantomeno bloccare l'emorragia dei posti di lavoro, per esempio. Piuttosto vedo un conflitto, una battaglia divisa in due fasi, dove in una prima fase vedo una necessità di portare avanti delle rivendicazioni immediate. La rivendicazione sull'integrazione salariale è una rivendicazione concreta, rispetto alla quale puoi costruire dei rapporti di forza con i lavoratori. Come dicevo prima, i lavoratori di tutto il gruppo Stellantis stanno subendo in questa fase una forte perdita salariale dovuta all'utilizzo massiccio degli ammortizzatori sociali. Poi dall'altro lato c'è l'inflazione che aumenta sempre di più, il costo della vita che aumenta sempre di più e poi aumentano sempre di più gli stipendi dei manager e degli amministratori delegati, quindi c'è anche molta rabbia da parte dei lavoratori. Cioè lo stipendio di Tavares equivale a mille stipendi di 1000 operai, per cui è questo un elemento concreto su cui costruire dei rapporti di forza e quindi una rivendicazione immediata che tu puoi portare avanti, come anche quella della riduzione dell'orario di lavoro, per esempio. Sono rivendicazioni immediate che tu puoi fare in modo da utilizzare in questa fase, in questo momento subito, per iniziare a costruire dei rapporti di forza anche molto incisivi. Per collegare tutto questo a degli aspetti più generali, che sarebbe poi la seconda fase, per così dire, che è quella della nazionalizzazione dell'intero settore e anche un piano pubblico di conversione, anche di sviluppo. Per cui è chiaro che tutto questo deve significare ammettere tutte le risorse produttive in mano ai lavoratori, perché poi possano svilupparle nell'interesse della collettività e quindi l'autogestione sotto il loro controllo di queste aziende. Perché senza di loro, senza gli operai, senza gli impiegati, senza gli ingegneri, non si accende una lampadina, non gira una ruota e non funziona una linea di montaggio. È questo che bisogna discutere, iniziare a discutere veramente, perché gli amministratori delegati servono solo a prendersi i soldi e a chiudere le aziende. Tutto qua. Terza e ultima domanda. Io e te ci siamo sentiti diverse volte, sono venute alle vostre manifestazioni a Modena della Maserati. Volevamo sapere come sta andando la vostra vertenza, quali sono le prospettive oggi in Maserati e come tutto questo è legato a quello che abbiamo detto. Ecco. E con questa ti saluto e ti ringrazio per la tua disponibilità. Ma in Maserati continuiamo a vivere una situazione molto difficile, al pari degli altri stabilimenti del gruppo, come dicevo prima. Il 2024 forse è stato l'anno peggiore di sempre, con un calo di produzione del 75%, quindi questo vuol dire aver lavorato di media 3-4 giorni al mese per tutto l'anno, e il 2025 non prospetta nulla di buono. Nei prossimi giorni avremo gli incontri con l'azienda per capire se si produrrà questo modello di vettura elettrica, anche se per noi non è una soluzione definitiva, soprattutto perché le vetture elettriche stanno avendo molti problemi sul mercato come vendita, ci aspettiamo un 2025 molto difficile, altrettanto difficile a pari del 2024. Mi hai lasciato qui da sola, non mi hai detto neanche il perché, ed ora mi ritrovo solo a fumare. Ma tu sai che non mi lascerai più, più. La faccio un po', prendo dell'aria, poi dicono la televisione è finta. Sì, però più, più la guardo, più credo che fallirò. Che cosa farò io domani? Che cosa sarò io da sola? Che cosa mi hai reso così all'improvviso? Ma poi un sorriso tu chiami. Mi hai lasciato qui da sola, non mi hai detto neanche il perché. Allora, abbiamo ascoltato un pezzo molto bello, si chiama Portapia di Coca Puma. Ringrazio chi mi ha fatto scoprire questa artista meravigliosa. Abbiamo ascoltato all'inizio un pezzo di Nina De Simone, c'è stato l'intervista a Giuseppe, dedicata dalla FIOM della Maserati, sulla manifestazione del 18 ottobre. Abbiamo spiegato nell'introduzione che purtroppo non sono riuscito a mandare queste interviste in questo mese perché sono successe una cosa dopo l'altra, e purtroppo a causa di quello che è accaduto abbiamo purtroppo trascurato la questione Fiat. Ma noi ad Alpine Rose chiaramente viviamo di pane Fiat anche, e non potevamo non mandarla questa puntata in cui abbiamo parlato con Giuseppe di quello che sta accadendo nel mondo dell'auto, in questo caso in Italia nel mondo della Fiat. Io voglio dire proprio due cose molto veloci. Io penso che quello che sta accadendo anche in questi giorni, ecco perché ho voluto dare questa intervista, perché veramente vedo noi come lavoratori metalmeccanici veramente siamo arrivati a un livello che non so come definirlo. Vedere Tavares che piange, no, verso il governo italiano chiedendo soldi e incentivi, dopo tutti i soldi che sono stati regalati Fiat e poi a Stellantis, è veramente qualcosa di imbarazzante. Non si può ascoltare una cosa del genere, è veramente vergognoso. Se noi dovessimo nazionalizzare, così come chiede Giuseppe, come noi chiediamo, come compagni che stiamo dentro le fabbriche, la Fiat non dovremmo dare un euro né alla famiglia Agnelli né ai nuovi che hanno acquistato il gruppo Fiat. Cioè, la Fiat ce la siamo comprata come Stato italiano non so quante volte, come cittadini italiani abbiamo buttato miliardi, e adesso che succede? è andata via perché fondamentalmente non paga manco più le tasse in Italia, sede legale nemmeno in Francia, dove comunque oggi sta spostando tutto lì, tutto sta spostando in Francia. No, non paga le tasse nemmeno in Francia, le paga in Olanda, come fanno tantissimi imprenditori italiani importantissimi, e chiedono continuamente a chiedere soldi pubblici, continuano ogni volta che sono in difficoltà chiedono soldi pubblici. Poi quando fanno profitti, come è successo in questi anni, hanno fatto dei profitti stellari, non distribuiscono ai lavoratori questi soldi. È causa anche di quello che è successo in Fiat, se i salari in Italia sono così bassi. E non è vero quello che dice la Meloni, che sono cresciuti, una balla colossale. I nostri salari sono, veramente sono, la crescita dei salari italiani è all'ultimo posto in Europa. Questo è davvero imbarazzante. Io credo che bisogna in questo momento capire che se si vuole salvare il settore industriale, perché noi non possiamo vivere di solo turismo, sarebbe bello, ma non è possibile. Il settore industriale, noi siamo la settima, ottava potenza al mondo a livello industriale, se no eravamo la quinta, e ci sono milioni di persone che vivono nell'industria. E abbiamo bisogno di un settore industriale, certamente bisogna guardare la transizione energetica, il cambiamento climatico, tutto il discorso del green, che non deve essere un greenwashing, non deve essere un green fatto solo a parole, ma deve essere reale, e deve guardare soprattutto l'occupazione. Abbiamo fatto delle puntate in cui abbiamo spiegato che si può affrontare transizione ecologica salvaguardando i posti di lavoro, addirittura aumentando i posti di lavoro. Può essere se gestita bene, e non da questo governo dai nostri padroni, ma da qualcun altro, sia da noi. Se si gestisce bene si può addirittura crescere l'occupazione. Abbiamo spiegato, quando abbiamo parlato degli autobus elettrici, della Breda, dei progetti che gli universitari hanno studiato. Ora, tornando a Stellantis in Fiat, questo momento è un momento cruciale. In questo momento non possiamo non affrontare anche come metalmeccanici la questione della Fiat, e in questo momento in cui FIM e WILM sono in difficoltà perché hanno capito che quello che hanno fatto fondamentalmente adesso è finita, cioè vi ricordate gli accordi separati, quello che era successo, in Fiat avevano sbattuto fuori la FIOM, adesso si rendono conto che non gli è servita a niente. E in realtà la Fiat si sta allontanando dall'Italia, sta dismettendo le industrie. Adesso tornano da noi a chiedere di scioperare, in questo momento che noi dobbiamo attirare a noi tutti i migliori lavoratori, i migliori delegati degli altri sindacati, e creare una lotta con un obiettivo ben preciso, quello di salvare il settore dell'auto in Italia, e possiamo farlo solamente noi. Ma serve un piano industriale, lì sì, veramente servono dei soldi, degli investimenti, ma non regalati agli azionisti Fiat che non pagano manco le tasse in Italia. Ma bisogna nazionalizzare sotto il controllo dei lavoratori la Fiat. Questo è il momento, lo diciamo da tanti anni, se non lo facciamo adesso non lo faremo più. Adesso ci sono le condizioni perché la FIOM prende in mano veramente, recuperi tutto quello che ha perso in questi anni e faccia un'azione diretta e importante. Iniziando il 29, che c'è lo sciopero generale, non ce lo dimentichiamo, è importante, ma questo deve essere uno degli argomenti che bisogna discutere il 29, bisogna portare anche in piazza, perché quando scioperemo contro il governo, scioperemo anche per un governo che sull'aspetto del piano industriale, soprattutto nel settore auto e della transizione ecologica, non sta facendo assolutamente nulla, anzi sta facendo tornare l'Italia indietro di veramente un secolo, e questo non è accettabile. Ecco perché bisogna cominciare a organizzarci, scioperare, ma seriamente, con scioperi importanti, e cogliere l'attimo. I lavoratori sono pronti se vedono che noi siamo coerenti e arriveremo fino alla fine. Ecco, con questo augurio vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata. Orgulloso de estar, orgulloso de estar, entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción.